Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti. A Salva Danaio sapete bene che una delle conseguenze più importanti e preoccupanti della crisi finanziaria degli ultimi anni è stata la riduzione, che in certi momenti è diventata vera e propria interruzione, del circuito del credito alle famiglie e soprattutto alle imprese, che in particolare nella fase acuta della crisi, nella seconda metà del 2008 e in gran parte dello scorso anno, si sono ritrovate a dover rinegoziare completamente la propria esposizione con la banca di riferimento, a volte dovendo rinunciare a linee di credito già attive e improvvisamente venute meno, a chiusure di si sono ritrovati appunto a scoprire improvvise chiusure di scoperti di conto, insomma una situazione che ha portato nell'estate dello scorso anno a varare una importante moratoria sui crediti delle imprese, il più noto avviso comune siglato da Confindustria e ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, un accordo che noi ne abbiamo parlato tante volte, soprattutto lo ha fatto Focus Economia, che prevedeva appunto fra le varie misure di sostegno la possibilità di congelare per un anno le rate di mutui e leasing, il prolungamento delle scadenze del credito a breve, un aiuto finanziario per le piccole e medie imprese che decidessero di ricapitalizzarsi. Ora la moratoria sta andando verso la fine dei termini e probabilmente il sistema bancario, d'accordo con quello delle imprese, sta studiando come prolungare con modalità diverse queste misure. Insieme a tutto questo molte banche stanno facendo anche degli accordi territoriali con le Confindustrie locali per continuare a garantire supporto finanziario agli imprenditori che ora tentano di lasciarsi alle spalle la crisi, guardano avanti, progettano di svilupparsi, riprendono ad andare sui mercati internazionali, vogliono portare innovazione tecnologica nelle loro imprese e magari riconvertirsi. E però in tutto questo ci sono per la verità da molti anni anche altri importanti canali di sostegno finanziario alle imprese. Allora noi oggi dai microfoni di Salva Danaio vogliamo spiegarvi che cosa è, come si accede, come funziona, cosa prevede il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questo è un fondo destinato alle piccole e medie imprese di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell'ambito dell'attività imprenditoriale. Leggo testualmente sul sito di questo fondo: l'intervento del fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito fino ad 1,5 milioni di euro, facilitando così l'accesso al credito. Io ho già detto molto, ma non è tutto, ci sono tante anche tecnicalità da spiegare per far capire a chi ci ascolta. Parliamo non solo ai piccoli imprenditori, ma anche per esempio alle imprese familiari, agli artigiani che hanno magari bisogno di accedere appunto ad un sostegno di questo tipo. Noi stamattina vi spiegheremo come si fa, intanto con la dottoressa Claudia Bugno, presidente del comitato di gestione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico. Dottoressa Bugno, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E naturalmente proprio anche per le tecnicalità, chiamiamole così, stamattina ci darà il suo supporto il dottor Guglielmo Belardi, responsabile Customer Relations Unicredit Medio Credito Centrale. Dottor Belardi, buongiorno e grazie di essere con noi anche lei. Buongiorno a voi, grazie. Allora, microfoni aperti agli ascoltatori all'800240024, oppure se siete dei timidi e non volete chiamarci in diretta ci potete scrivere al 349-238-6666. Una nuova giornata bruttina per quello che riguarda la borsa, con qualche cenno di miglioramento su alcune piazze, qualcuna tenta di rimbalzare, addirittura vedo Francoforte che adesso sta strappando un più 0,03%, ma il quadro è ancora all'insegna della forte debolezza. Londra meno 0,39%, a Parigi meno 0,51%, Milano meno 0,24%, la crisi irlandese si acuisce di minuto in minuto e nonostante la formalizzazione della richiesta di intervento all'Unione Europea, al Fondo Monetario Internazionale per una novantina di miliardi di euro, così briciole, adesso si è acutizzata anche la crisi politica del paese e questo stamattina sta mandando in tilt le banche, che stanno perdendo oltre il 20%, almeno i principali gruppi bancari irlandesi. Il listino perde oltre 2 punti e in sostanza a questo punto gli investitori si preoccupano di più dei giorni passati di un rischio domino sul Portogallo e sulla Spagna. Insomma, accantonata la questione greca, adesso gestiamo quella irlandese, chissà che domani non si aprano anche quei fronti. Detto questo è solamente una prospettiva. prospettiva sulla quale oggi però il mercato sta ragionando seriamente, a Piazza Affari titoli con il segno più bulgari, più 3,68% rimbalza dopo il crollo di ieri Finmeccanica, più 1,21% Tenaris, più 1,19% Geox, in rialzo di un punto. I cali più forti sono su Fondiaria, ha lanciato l'aumento di capitale da 460 milioni di euro, il titolo scende del 4%. Le schiarite non ancora arrivate sulla battaglia per il controllo della olandese Draka oggi sta facendo ripiombare le vendite su Prismian, meno 2,58%, Italcementi, meno 2,34%, Azimut, meno 2,11%, Buzzi, meno 1,96%. Questi sono i principali temi della seduta di Piazza Affari, con l'euro che torna ad indebolirsi sul dollaro, vale 1,35,85. Lasciamo la borsa, noi oggi a Salvadanaio ci dedichiamo alle piccole e medie imprese e vi spieghiamo come funziona il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ormai è vicenda nota. La crisi finanziaria e i suoi effetti non hanno tardato a ripercuotersi sulla vita delle piccole e medie imprese. La stretta del credito erogato e le difficoltà nel reperire capitali freschi hanno messo a dura prova l'esistenza di molte realtà. A fornire una ventata di ossigeno alle PMI ha senza dubbio contribuito il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che soltanto nel 2009 è intervenuto a sostegno di oltre 20.000 aziende, con finanziamenti pari a 4,5 miliardi. E i numeri da gennaio 2010 ad oggi dimostrano che l'attività di questa sorta di bollino statale non accenna ad arrestarsi, tutt'altro. Ai primi di ottobre di quest'anno risultavano ammesse alla garanzia del Fondo oltre 40.000 operazioni, più 122,5% rispetto all'anno precedente, per un volume complessivo di finanziamenti pari a 7,6 miliardi. La crescita dunque è notevole e i numeri lo confermano, a riprova del fatto che per le piccole e medie imprese l'uscita dalla crisi passa attraverso l'immissione di liquidità e l'accesso al credito. Ossigeno che arriva proprio grazie alla presenza di formule di garanzia, utili, spesso fondamentali, per avere il via libera su finanziamenti che le banche non sarebbero disposte ad accordare a imprese prive di merito creditizio. 800 24 0024, il numero verde per le domande e le richieste di intervento degli ascoltatori, oppure per la modalità SMS, il numero è il 349-238-6666. Dottoressa Bugno, Claudio Bugno, presidente del Comitato di Gestione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI al Ministero dello Sviluppo Economico. E allora, è chiaro che la crisi degli ultimi 3-4 anni ha proprio enfatizzato l'attenzione su tutti gli strumenti di supporto per le imprese che hanno avuto, io prima ho detto, una riduzione del credito in certi momenti, però dobbiamo ammetterle, è stata una vera e propria interruzione nella fase acuta della crisi nell'autunno del 2008. In sostanza le banche non si prestavano più denaro tra di loro, figuriamoci se potevano continuare a fare la loro attività anche normalmente, erogando credito alle famiglie e alle imprese. Superata quella fase acuta, però oggi stiamo cercando di ristabilire una sorta di normalizzazione. Forse l'enfasi su questi strumenti di sostegno alle imprese è andata un po' calando, ma non credo, perché invece il Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico mai forse come in questo periodo ha movimentato la sua attività e naturalmente ha dovuto anche rafforzare, no? La sua dotazione in qualche maniera. Uno strumento che nasce nel 96. Sì, lo strumento è nato nel 96, quindi è stato costituito per legge presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Era utilizzato prevalentemente dal mondo di Confidi e aveva un andamento abbastanza coerente e costante. Noi abbiamo visto grande tensione e grande sollecitazione da parte del sistema delle PMI, delle imprese, delle associazioni, proprio sulla delicatezza che lei prima annunciava. Nel periodo un po' di crisi l'attenzione su questo strumento è stato considerato propriamente come l'ossigeno per il sistema produttivo. E dal 2008 sono state portate avanti alcune importantissime riforme che hanno permesso a questo strumento di andare avanti in maniera molto efficace, veloce e anche innovativa. Le più importanti quali sono state? Naturalmente l'innalzamento dell'importo massimo garantito, ma ma anche l'estensione ad altri settori che prima non supportavate, non sostenevate? Allora, innanzitutto è importante in un periodo di appunto di fondi, è importante citare che diciamo il fondo è di circa 2 miliardi nell'arco temporale 2008-2012, quindi la copertura finanziaria è stata assicurata, garantita e aumentata. Lei parlava prima appunto del 1,5 milioni di euro garantiti, anche questa è una misura che è andata da una parte incontro alle imprese a livello dimensionale un po' più grandi, ma dall'altra l'allargamento alla componente artigiana ha permesso di soddisfare le attese anche dei piccolissimi imprenditori artigiani che costituiscono, non va dimenticato, a livello italiano il 99% del sistema produttivo, quindi insomma vanno affiancati soprattutto anche in questi momenti di difficoltà. E infatti, ecco, una cosa che va subito precisata, dottoressa Bugno, magari proprio per a chi non è un imprenditore, ma magari così per curiosità personale interessato a queste tematiche, non è che, come dire, la vostra iniziativa è un fondo al quale si può accedere per sostenere l'impresa, non è che un imprenditore che ha magari avuto il no dalla banca chiama il Ministero dello Sviluppo Economico che stacca l'assegno, naturalmente sulla base di determinate garanzie fornite dall'azienda stessa. Il vostro è una sorta di riassicuratore di ultima istanza, possiamo definirlo così? Ho visto anche che vi è stata data la definizione di bollino statale. Allora, ha perfettamente ragione, nel senso che è uno strumento che ha un effetto leva, perché si muove col sistema bancario attraverso la garanzia diretta e quindi dando la garanzia, garantendo naturalmente quel tipo di imprese che sono considerate sane, perché abbiamo una serie di parametri e requisiti che devono essere soddisfatti, quindi si cerca di dare garanzia alle imprese sane come effetto moltiplicatore, e queste imprese sane naturalmente possono avere la garanzia della banca, lo Stato garantisce la banca, quindi c'è quell'effetto che viene chiamato ponderazione zero. La banca dovrebbe, avendo la garanzia dello Stato, evitare di accantonare troppa liquidità e quindi rimetterla in circolo. Questo è l'effetto leva nei confronti del mondo della garanzia diretta nei confronti delle banche. Dall'altra parte abbiamo il sistema della controgaranzia e l'articolato mondo dei confidi, quindi che sono uno strumento legato ai territori che hanno il rapporto diretto con le imprese e fanno un'attività quotidiana di affiancamento. Il fondo centrale quindi garantisce a livello di seconda istanza quindi le imprese, e anche lì si riesce ad attuare un effetto moltiplicatore. Benissimo, abbiamo spiegato adesso tutto lo spirito relativo all'attività del fondo, del Ministero dello Sviluppo Economico, appunto il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Adesso naturalmente dovremo addentrarci anche in quelle che io prima in maniera un po' così leggera ho definito in una maniera che non è stata apprezzata dagli ascoltatori, le tecnicalità, vabbè mi è scappata, insomma parleremo delle modalità tecniche con le quali si può accedere a questa garanzia. 800 24 00 24, qui ci aiuterà il dottor Belardi, naturalmente prenderemo a spunto anche alcune vostre osservazioni, esperienze personali che vedo già si stanno prenotando all'800 24 00 24, un minutino di pazienza, un po' di pubblicità, il meteo a tra poco. Devo dire che stanno arrivando davvero molte sollecitazioni e molte richieste di intervento all'800 24 00 24, segno che c'è ancora desiderio di parlare di supporto ai piccoli imprenditori in Italia che hanno avuto grandissima difficoltà ad operare in questi anni per la crisi finanziaria, poi diventata crisi economica, per il credito che è venuto a mancare, adesso si sta rimettendo in circolo, e però insomma lo strascico della crisi è ancora pesante e il sostegno finanziario alle imprese è ancora evidentemente un bisogno molto forte. Noi stamattina stiamo parlando di come funziona, anche se ancora non siamo entrate nelle modalità tecniche, così va meglio, del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, uno strumento già attivo dal 96 ma che ha potenziato la sua dimensione naturalmente proprio per fronteggiare le conseguenze di quanto accaduto negli ultimi anni. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Allora, prima di cominciare ad interagire con il nostro, chiamiamolo così, tecnico di questa mattina, il dottor Guglielmo Belardi, responsabile Customer Relations di Unicredit Mediocredito Centrale, sentirei la domanda di Raffaele da Palermo, che saluto. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, la saluto, chiamo da Palermo, volevo sapere se le imprese di costruzioni possono aderire a questo fondo, quali sono i termini per aderire, se ci sono delle qui uffici territoriali a Palermo a cui uno si può rivolgere per presentare le relative pratiche. Benissimo, Raffaele. Allora, dottor Belardi, credo che queste siano proprio le domande principali che vi sentite fare un po', no, sul territorio. Intanto, come dire, proprio concretamente, com'è possibile incontrare questo fondo? Intanto, il settore delle costruzioni è uno dei settori supportati eventualmente dal fondo di garanzia? Certamente sì, tant'è che per quanto riguarda proprio le imprese di costruzioni, nei criteri di valutazione abbiamo delle specificità, perché come noi sappiamo le imprese di costruzioni sono imprese che realizzano i ricavi tutti in una volta su iter produttivi che possono durare anche più di un anno, insomma. Quindi tant'è che per la valutazione del fatturato dell'impresa di costruzione non si guarda il fatturato vero e proprio, ma si guarda il valore della produzione, proprio per cercare di superare quella specificità che sarebbe oltremodo penalizzante nei confronti dell'impresa. Per quanto riguarda poi la possibilità di incontrare, tra virgolette, il fondo di garanzia, bisogna chiarire una cosa, che il fondo di garanzia non ha un rapporto diretto con le imprese. Noi abbiamo un rapporto diretto con le imprese perché in comitato di gestione siedono i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, quindi le imprese sono adeguatamente rappresentate all'interno del comitato. Tenete conto che le domande di accesso al fondo di garanzia possono venire soltanto da soggetti qualificati e accreditati. Come per esempio le banche e le società di leasing dal punto di vista dei soggetti finanziatori, quindi per l'accesso alla garanzia diretta, come per esempio i confidi e i cosiddetti altri fondi di garanzia per quanto riguarda le richieste di controgaranzia. Quindi nel caso di Raffaele, dottor Belardi, tanto proprio per concretizzare nei massimi termini la questione, il primo interlocutore potrebbe essere il direttore della banca, qualora facesse un po' orecchie da mercante e non avesse voglia di avventurarsi per conto di questo suo cliente nella richiesta della garanzia di ultima istanza da parte del Fondo per le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, può rivolgersi ad un'altra organizzazione territoriale come o la piccola industria locale, oppure proprio Confidi. Bravissima, nel senso che in genere i Confidi molto spesso sono espressioni delle organizzazioni di categoria. Quindi per esempio noi abbiamo nel caso degli artigiani i confidi che aderiscono alle organizzazioni artigiane, abbiamo i confidi di Confindustria, abbiamo gli asconfidi che sono i confidi dell'associazione dei commercianti, abbiamo una serie di organismi che fanno sistema e che servono a mettere in contatto l'impresa, anche la piccola impresa, con il mondo della finanza, il mondo dell'economia e quindi col sistema bancario e con il sistema delle garanzie. Tra l'altro noi stiamo parlando della Sicilia. La Sicilia è una regione nella quale storicamente c'è stata sempre molta sensibilità nei confronti del fondo di garanzia. In Sicilia abbiamo un Confidi che è il numero 2 a livello nazionale come richieste di accesso al fondo. Abbiamo un sistema di banche di credito cooperativo che è estremamente attivo per quanto riguarda la garanzia diretta, e mi risulta che in Sicilia il mondo dei confidi è molto tutelato perché la stessa regione siciliana prevede degli interventi di abbattimento degli interessi su finanziamenti garantiti dai confidi. Quindi che è chiaro che queste sono tutte cose che servono a creare il sistema. Non è detto che poi magari ci siano dei casi isolati che hanno delle difficoltà. Io consiglio sempre di rivolgersi alle banche. Noi abbiamo qualche cosa come 235 banche accreditate sul territorio nazionale, e per banche dico ogni singola legal entity, quindi la Banca Nazionale del Lavoro vale per uno, Unicredit vale per uno, quindi abbiamo 235 soggetti che vanno a coprire benissimo e capillarmente tutto il territorio nazionale. Non possiamo escludere che il singolo direttore di filiale magari possa avere poca dimestichezza, sì, con il fondo di garanzia, però in quel caso è un'eccezione, diciamo, sì, che speriamo non sia molto frequente sul territorio, diciamo, capita per tutte le cose. Diciamo questo, che capitava molto spesso fino a un paio d'anni fa. Da un paio d'anni fa, con l'avvento della garanzia dello Stato, diciamo, le banche sono particolarmente attive per quanto riguarda le richieste del fondo di garanzia, e sto parlando di circa 7.000 account sul territorio nazionale, cioè di colleghi di banca che hanno la possibilità di attivare la procedura web. Poi, se volete, vi spiego anche diciamo ulteriori peculiarità di questa nostra attività, nel senso che noi abbiamo una piattaforma web, a noi le domande non ci arrivano in cartaceo, ci arrivano direttamente via web. I soggetti debbono essere accreditati proprio perché, per accelerare le procedure, evitiamo la trasmissione dei pezzi di carta. In tempo reale il soggetto, il collega che ha l'account, presenta la domanda e in tempo reale riceve il feedback da parte nostra con la lettera, con il numero di posizione e con la lettera di avvio del procedimento amministrativo. Anche se poi quel sistema, dottor Belardi, ma qui magari potremmo aprire un altro versante problematico che affrontiamo nella seconda parte della trasmissione, fa venire a mancare anche quel rapporto che qualche volta per avere credito è necessario che un piccolo imprenditore abbia con il direttore della sua filiale, perché magari la conoscenza, come dire, personale potrebbe spingere un po' di più l'ottenimento del credito. Però questa è un'altra parte, l'affrontiamo magari dopo. Volevo ritornare a dottoressa Bugno prima di sentire altre domande. Sono davvero tante stamattina da parte dei nostri ascoltatori, proprio perché abbiamo toccato la questione siciliana e quindi, come dire, la dimensione geografica del problema. Proprio a livello geografico in Italia, come avete assistito, con che distribuzione appunto le piccole e medie imprese italiane, quale tipologia è stata maggiormente anche garantita in termini dimensionali, dottoressa Bugno? Allora, diciamo, come distribuzione geografica abbiamo visto un nord naturalmente molto vivace, quindi quasi un 50%, un 49.7% del nord, che ha visto anche rispetto all'anno 2009 un aumento del 130%, quindi cifre importanti. E mezzogiorno sta un 36% e il centro ha un 14% dell'utilizzo, quindi, del fondo centrale di garanzia. Posso dirle una classifica, chiamiamola nazionale, tra le regioni che hanno utilizzato maggiormente il fondo? Abbiamo la Lombardia in testa, Piemonte, Sicilia, quindi torna alla regione del sud, e la Campania con percentuale, diciamo, un po' distante dalla Lombardia naturalmente, quindi come quarta regione. Ecco, in quanto a tipologia, diciamo, dimensionale, perché quando voi parlate di forte assistenza per esempio alle microimprese, micro quanto? Un'azienda di tipo artigiano familiare ha la capacità anche di poter accedere a questi strumenti, perché anche magari una dotazione tecnologica che la aiuta, la capacità di farlo, quindi anche per capire se effettivamente un piccolo artigiano può rivendicare il diritto ad avere ad un accesso ad una garanzia come la vostra? Ecco, proprio la tipologia, questo è un fondo per le piccole imprese, quindi abbiamo, le do questo numero, quasi un 57,2% di microimprese che hanno visto anche una grande crescita nell'anno 2009, quindi sono veramente imprese. L'allargamento alla componente artigiana che dicevamo prima ha agevolato e intensificato questa relazione. Poi magari Belardi spiegherà bene il lavoro incredibile che si fa proprio di tutto raggio, proprio per venire incontro alle difficoltà di questo del nostro sistema. Le piccole imprese sono quasi un 32%, quasi 33%, e quelle di medie dimensioni sono sul 10%, quindi rimangono sempre in qualche modo la quota di minoranza che si appoggia a questo strumento. Certo, io tra un po' devo riandare in pausa prima di sentire altri ascoltatori, dottoressa Bugno, però proprio anche per rispondere alla domanda di Raffaele, che è una domanda che si fanno in molti ascoltatori, so che anche lei ci teneva a darci in qualche maniera qualche riferimento per poter avere informazioni sul funzionamento del fondo di garanzia. Vi si può anche scrivere direttamente? Sì, potete scrivere assolutamente sia accedere al nostro portale che è www.fondidigaranzia.it e quindi plurale fondidigaranzia.it, sì. Ce l'ho anch'io sotto gli occhi in questo momento, così almeno non ci si sbaglia. Esattamente, comunque qualsiasi tipo anche di richieste di informazioni che riceviate, se voi ce la girate, sarà il nostro impegno rispondere uno a uno a tutti gli ascoltatori. Naturalmente c'è proprio anche il link contatti per cui si possono rivolgere delle questioni appunto direttamente al sito fondigaranzia.it. Allora ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio, poi la parola ad Anna da Lucca, Gianluca da Ancona, Marco da Roma, un momentino di pazienza, tra poco e poi ci facciamo spiegare dal dottor Belardi in cosa consiste questo lavoro di tutoraggio, a tra poco. Allora naturalmente io raccolgo anche le perplessità di chi ci scrive, ma insomma ci dicono alcuni ascoltatori: state dipingendo una situazione che sembra molto facile a realizzarsi, è chiaro che noi parliamo di quello che potrebbe essere sempre il migliore dei mondi ed è chiaro anche che molte richieste di intervento da parte di molte imprese per mancanza di requisiti vengano bocciate, e però insomma i numeri anche delle imprese garantite, sostenute ci sono, e anche di queste dobbiamo parlare. E allora un paio di considerazioni da due ascoltatori e poi al dottor Belardi. Gianluca da Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto la ringrazio per avermi fatto partecipare, perché almeno sentite anche la versione della realtà, probabilmente che è abbastanza diversa da quella che state dipingendo, è vero. Allora, innanzitutto mi dispiace dirlo, le do nome e cognome perché non vorrei che poi si pensasse. Gianluca Di Federico, io ho mandato una mail 2 mesi fa, non mi hanno risposto il fondo di garanzia, a contatti, provi lei, forse dal Sole 24 Ore rispondono prima. Va bene, adesso sponsorizziamo la sua richiesta, Gianluca, la raccomando. No, non la voglio, perché quando ho bisogno di sponsorizzazione significa che va male, dottoressa. Ha ragione. Allora, andiamo avanti. Secondo, io ho presentato a 3 banche diverse la domanda tramite il fondo di garanzia perché ne ero a conoscenza. BNL, posso fare i nomi o posso evitare? No, ci mancherebbe, se l'hanno detto di no sarà tutto nero su bianco, non è mica un insulto. Le ha detto di no, appunto, è la realtà. Perfetto, allora, BNL ci ha rifiutato la domanda. Allora consideri che sul sito è specificato che si possono chiedere il consolidamento di debiti di passività a breve termine, calcolando la crisi 2008-2009, credo che sia la principale esigenza di un imprenditore come certamente me. Sono andato in banca, volevo consolidare questo debito, mi sono sentito rispondere: vabbè, ma io perché dovrei consolidare il debito di un'altra banca? Ho detto: vabbè, ma voi siete convenzionati, l'altra no. No, ma la banca non gli conviene. Va bene. Vado avanti. Unicredit, vado a Unicredit, mi dispiace che c'è un suo interlocutore di Unicredit, però io le devo dire come stanno le cose ad Ancona, il direttore che è un amico, ma mi sono sentito rispondere in questo modo: ma lo sai quanto ci guadagniamo noi su questo tipo di operazione? No, me lo dica lei, troppo poco. La ringrazio. No, tra l'altro, a parte Gianluca, poi adesso la faccio concludere, naturalmente mi piacerebbe capire se praticamente le risposte a tutti i clienti sono state di questo tenore, perché allora stiamo parlando ovviamente di banche che sul territorio non fanno più niente, per cui poi mi piacerebbe, ovviamente le faccio fare anche qualche domanda, se lei lo vuole, dal dottor Belardi, per capire anche che tipo di attività fa, i parametri che sono necessari allora, anche per questo accesso. Terza banca, questo. Mi racconti anche della terza banca? Sì, la terza banca è Banca Intesa, sono le 3 banche più grandi, certo. La quale invece mi ha detto: sì, vabbè, loro ci garantiscono il 60%, l'altro 40% come me lo garantisci? Mi metti dei soldi ad obbligazione della banca? Ho detto: beh, praticamente vuoi i soldi a prestito zero, cioè vuoi rischiare zero. Va bene, io le dico subito: noi lavoriamo con banche locali piccole, sono le uniche banche che ancora oggi mettono i soldi. Ma guardi, il dottor Belardi lo sa benissimo perché me l'ha detto anche lui, quindi chiudo l'argomento dicendole questo. Mi perdoni, la mia è perché sono 20 anni io, 40 anni mio padre, che facciamo attività, siamo nell'ambito delle costruzioni, ma non costruire a vendere, o addirittura per pubbliche garanzie massime, insomma, sotto questo profilo, anche se siamo in difficoltà. Sì, infatti, vi pagano almeno, paga il pubblico. Stiamo facendo i lavori del post terremoto all'Aquila, non le dico niente, io non sono il tipo che mi lamento, però fatture di 1 anno e mezzo che le banche, tra l'altro, ci hanno richiesto indietro i soldi, perché dopo 180 giorni Basilea rivogliono i soldi indietro. Questo per farle capire in che condizioni lavoriamo. Ciò detto, le voglio solo precisare che con le altre 2 banche siamo regolarmente affidati, tranquilli, si lavora tranquillamente. Ciò che mi dispiace è solo una cosa: fino a che, mi perdoni questo sfogo, si consentirà alle banche di investire soldi in borsa, questi soldi alle imprese non ce le metteranno mai. Perché con noi, prestando i soldi tramite il fondo di garanzia, prendono, ed è la realtà, glielo potrà dire i suoi ospiti, prendono il 2,53% sul prestito che fanno. Se vanno in borsa prendono il 10%. Allora io dico: ma chiedetemi a me il 10, chiedetelo a me, ve lo do io, però perdono lo sfogo, però dateceli. Gianluca, perché aspetti lì, lavorare. Perché io voglio farla, la voglio fare interagire con Guglielmo Belardi, perché questo è un appello accorato di una persona che con grande dignità ci ha raccontato il suo caso. È chiaro che poi bisognerebbe vedere un po', insomma, le motivazioni concrete per cui queste tre banche hanno rifiutato un supporto di questo tipo. Non stiamo parlando della filiale del Burundi, di queste grandi banche. Dottor Belardi, insomma, io non voglio aggiungere niente a quello che il nostro ascoltatore ci ha raccontato. Che ne pensa? Che mi dice? Ma bisogna, diciamo, innanzitutto il dato sintomatico è che abbiamo una situazione pressoché convergente di colleghi delle tre principali banche, diciamo, che operano sul territorio nazionale. Per quanto ci riguarda, noi possiamo dire che soltanto quest'anno, tanto per far capire che in realtà, diciamo, il movimento c'è, soltanto in quest'anno siamo intervenuti su 14.000 domande di garanzia diretta, quindi diciamo siamo intervenuti nei confronti di 14.000 imprenditori su domande presentate direttamente dalle banche. Come svolgerebbe il suo lavoro di tutoraggio per Gianluca? Allora, al di là del fatto che noi il tutoraggio cerchiamo di farlo nei confronti dei soggetti che interagiscono con noi, cioè nel senso che noi interveniamo sul sistema bancario, sulle società di leasing, sui confidi, diciamo, per far sì che sia molto più fluido il sistema di interazione tra noi e loro, quindi svolgiamo degli stage direttamente presso le banche, presso i confidi, oppure li invitiamo presso di noi per far capire ciò che cosa debbono fare. Per quanto riguarda i rapporti con le singole imprese, sì, talvolta capita che intercettiamo, diciamo, delle richieste di singole imprese. Io diverse volte personalmente mi sono interessato per situazioni diciamo, che devo dire però accadevano molto più prima che non adesso, sì. Però posso sempre dire che chiaramente noi non abbiamo contezza sulle migliaia di filiali che ci sono, certo, diciamo, sparse in tutta Italia. No, ma infatti adesso io sono anconetana in primo luogo, quindi sono del tutto solidale con l'ascoltatore per una città che conosco molto bene. Tre risposte di un tenore un po' diverso, ma comunque tutte verso il diniego, lasciano ovviamente anche riflettere, perché però qui adesso vorrei capire se si tratta di tre direttori svogliati oppure proprio se di una condizione da non poter supportare, che è quella di Gianluca, della sua particolare attività imprenditoriale, del business che ha in piedi. Dottor Belardi, non per romperla in maniera maleducata, so che deve completare il suo discorso, però siccome il tempo corre voglio farle anche sentire il caso di un ascoltatore che invece ha completato con successo la sua pratica di richiesta della garanzia del fondo delle PMI. Nicolò. Sì, salve. Buongiorno. Sì. Allora, io volevo presentare questo mio caso. Anch'io ho presentato tramite consorzio di garanzia Fidi per la mia azienda un consolidamento. Il consolidamento da prima presentato su un'unica banca mi è stato rifiutato con la scusa del frazionamento sui tre istituti di credito. Infatti, quello è il caso di prima. Esatto, su questi tre istituti solo uno ha aderito a questo consolidamento, peraltro garantito da Confidi Puglia per l'80% del valore, mentre gli altri due istituti, uno si è totalmente rifiutato e parliamo di Unicredit, mentre il terzo, BNL, mi ha detto che piuttosto che un Confidi e quindi con una garanzia all'80% preferirebbe fare un chirografario con me, con la garanzia il mio immobile. Però in sostanza con una delle banche citate, Nicolò, lei è riuscito a chiudere l'operazione. Sì, con una delle banche, sì, in questo caso parliamo di Monte Paschi. Sì, benissimo. Allora, va bene, allora dottor Belardi, purtroppo qua c'è rimasto un minuto di tempo prima di salutarci, allora magari ci ritorneremo a breve su questo argomento. Detto questo, è chiaro che poi ogni banca deve rispondere adesso a Basilea 3, a tutti i suoi requisiti a cui rispondere, a tutta una serie di problemi, per cui qualche banca su un progetto simile risponde in un certo modo, un'altra risponde in un altro. Insomma, con che messaggio vogliamo chiudere la nostra trasmissione di oggi? Comunque tentar non nuoce e non è detto che tutti i casi si concludano sempre negativamente. Oggi comunque la banca, l'impresa la deve supportare, sennò qua non ne usciamo più fuori da questa crisi. Assolutamente sì, nel senso che ripeto, se è vero come è vero che soltanto nel 2008 siamo intervenuti su 14.000 domande e che quest'anno con tutte le probabilità arriveremo a quota 50.000 operazioni deliberate, evidentemente c'è un sistema che è un sistema virtuoso, un sistema che funziona. Poi può capitare che ci sono delle singole, diciamo, situazioni, ma non dimentichiamo anche un'altra cosa, che le banche debbono fare un certo tipo di valutazione, perché chiaramente anche il fondo di garanzia ha una sua selettività. Certo. Le banche hanno un obiettivo di carattere socio-economico, che debbono, per creare ricchezza, debbono aiutare coloro i quali sono in grado di creare ricchezza. Però insomma, i problemi che abbiamo sollevato il fondo li conosce senz'altro, noi ci ritorneremo su questo argomento, sono già fuori tempo massimo. Grazie a Claudio Bugni, a Guglielmo Belardi per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.